in primo piano. Buongiorno, oggi al centro delle prime pagine dei giornali, in apertura, l'argomento che tiene banco è la decisione del governo americano di aumentare la propria quota di partecipazione nelle grandi banche USA. La prima ad essere tra virgolette salvata sarà Citicorp, che è stata fino all'altro ieri la più grande banca del mondo, presa a modello da tutti, ed oggi è diventata modello negativo. Il Sole 24 Ore titola: banche USA, sale lo Stato. La Stampa invece ci dà un'intervista sempre a caratterizzazione economica al presidente francese Sarkozy, e che si intitola: l'Europa rifonderà il capitalismo. Il Corriere della Sera titola: Europa e USA, allarme banche, e così via, lo stato banchiere. Il Foglio, Repubblica sulla stessa linea: Obama fa il banchiere, recita il riformista. Altri giornali invece un po' più di nicchia, come i giornali che si ispirano grosso modo al centrodestra, invece pongono al centro della loro attenzione notizie più legate alla cronaca quotidiana. La Padania intitola sui crimini rumeni, bollettino di guerra, e il Giornale sugli sprechi nell'università: presidente, ecco l'università da tagliare, rivolgendosi al presidente della Repubblica Napolitano, che sconsigliava interventi indiscriminati. Veniamo ora quindi al dettaglio. Il Sole 24 Ore inizia così la sua cronaca: il Tesoro USA è pronto ad aumentare la propria quota nelle banche in difficoltà tramite la conversione in azioni ordinarie di titoli privilegiati ottenuti in precedenza. Come voi sapete, i titoli privilegiati sono le azioni che hanno assicurato un miglior rendimento, ma minori o quasi nulli diritti di intervento nella vita della società. Le azioni ordinarie invece sono il contrario: non hanno un rendimento garantito, in questo caso il rendimento tenderà allo zero, ma danno il pieno potere, il pieno titolo per intervenire nel governo della società. Prosegue la cronaca: il primo istituto interessato ai salvataggi del governo è Citigroup, in cui il governo federale americano potrebbe salire fino al 40%. Se voi considerate che queste grandi banche hanno un azionariato molto diffuso, avere il 40% significa comandare. In borsa il titolo ha riguadagnato il 9,7%, ma non è bastato per Wall Street, che è scesa ai nuovi minimi dal 1997. Anche in Europa, prosegue il giornale, borse in ribasso, con alcuni titoli in controtendenza come Unicredit, che ha guadagnato il 3,7%. In un documento la Commissione dell'Unione Europea indica la nazionalizzazione delle banche come una delle opzioni per i governi, mentre il governatore della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet rileva un forte calo nei crediti delle aziende. Questo è il punto. Siamo dunque verso una svolta. Il tema della nazionalizzazione delle grandi banche, che riguarda, ripetiamo, per una giusta informazione, equilibrata informazione per i nostri ascoltatori, riguarda soprattutto le banche estere, le banche americane, le banche inglesi, le banche tedesche, riguarda molto meno altre banche europee, e in questo momento, con le informazioni che abbiamo, non riguarda le banche italiane. Ecco, questa svolta però tende a rifondare il capitalismo. Questa almeno è l'opinione del presidente francese Sarkozy, il quale nell'intervista alla Stampa dice: sin dall'inizio di questa crisi, sotto la presidenza francese ieri e sotto la presidenza ceca, l'Europa è stata il motore di iniziative finalizzate a rifondare, niente meno, il sistema economico e finanziario internazionale. Le ricordo che siamo stati noi europei a proporre e ottenere l'organizzazione del primo G20 a Washington, che ha consentito, ed è un risultato storico, alle principali economie del pianeta di mettersi d'accordo per dare una risposta concreta e concertata alla crisi. Beh, se noi vediamo i dati dell'economia e delle borse attuali, insomma, questa risposta concreta e concordata non ha ancora mostrato tutte le sue belle virtù. In realtà, come ci racconta il Sole 24 Ore a pagina 2 in un interessante articolo di Rossella Bocciarelli, passa in rassegna un po' tutte le opzioni che sono state messe sul tavolo in questi giorni: la bad bank, il sidecar, le assicurazioni sui crediti a garanzia pubblica, la soluzione cosiddetta caballero dell'economista che invita il governo americano a comprare a termine al doppio del valore il doppio dei titoli in circolazione. Ecco, tutte ipotesi alle quali non sta seguendo ancora nulla. In un altro articolo di cronaca interessante di Enrico Brivio ci si dice: nei casi in cui pone il problema di come debbano essere valutati, perché questo è il nodo, le attività delle banche, cioè i crediti e soprattutto i titoli obbligazionari più o meno complessi che hanno in bilancio, come debbano essere valutati quelli di cui si teme l'insolvenza, i cosiddetti titoli tossici. Ecco, questo è un problema molto serio, perché non c'è una valutazione di mercato di questi titoli, perché nessuno li vuole, e quindi è sempre un po' arbitraria. Ecco, davanti a questa difficoltà si fa strada, sia pure sommessamente ancora, l'idea di non trasferire queste attività tossiche che non hanno un prezzo di mercato in speciali discariche, di cui non lo si dice bene, ma poi deve essere il governo a pagare i costi, ma di fare l'inverso. Ecco, qui ci racconta Brivio: nei casi in cui la valutazione di questi asset fosse particolarmente complessa, si possono valutare approcci alternativi come la creazione di una good bank dove raccogliere gli asset sani. La proprietà pubblica di una banca, inclusa la nazionalizzazione, può costituire un'opzione alternativa, fa presente Bruxelles, con la possibilità di portare la valutazione in un contesto di ristrutturazione o di liquidazione, rimuovendo ogni incertezza sul valore appropriato degli asset considerati. Cioè, che cosa vuol dire in concreto? Vuol dire che si prende una banca che sta molto male, che è sull'orlo del fallimento, si estraggono da questa banca le cose buone, i rapporti bancari ancora buoni, quindi i depositi, quindi le obbligazioni sottoscritte dal pubblico per finanziare la banca, e gli impieghi che la banca fa, e tutto il resto viene lasciato al suo destino. In questo modo la parte buona può essere ricollocata sul mercato se esistono soci privati in grado di prenderla, oppure può essere nazionalizzata a un prezzo trasparente, mentre la parte cattiva va al fallimento. Si è sempre invocato il diritto di fallire, beh, questa è l'occasione di farlo senza mettere a rischio il sistema economico, ma anzi facendo chiarezza e dando fiducia alle persone, ridando fiducia alle persone. Sempre l'economia è al centro e ci sono notizie così secche. La Honda, grande casa automobilistica giapponese, ha cambiato il proprio vertice. L'agenzia di rating Moody's declassa il debito Fiat. Se vogliamo andare a vedere una curiosità di questi tempi, nelle pagine interne dedicate all'economia, Repubblica ci ricorda che il re delle cliniche lombarde, Giuseppe Rotelli, ha dovuto onorare una promessa d'acquisto di titoli della casa editrice RCS pagandogli 82 milioni, cioè 7 volte, pensate, il prezzo di mercato che oggi hanno questi titoli, perché quell'accordo che lui aveva fatto risale a qualche anno fa. E questo è un esempio di che cosa vuol dire la crisi finanziaria sugli investimenti finanziari medesimi. Se lasciamo per un attimo da canto l'economia ed entriamo nella cronaca. C'è una importante notizia in esclusiva sul Corriere della Sera: gli attentati di Mumbai, una pista porta a Brescia. Che cosa è successo? Guido Olimpio e Fiorenza Sarzanini ci scrivono: portano a Brescia le tracce lasciate dai terroristi entrati in azione a Mumbai il 26 novembre scorso. Indizi concreti che servono a delineare la rete logistica attivata per pianificare gli attacchi simultanei che sconvolsero la città indiana, provocando 138 morti, 26 dei quali erano turisti stranieri, tra i quali un italiano, e centinaia di feriti. È proprio dalla Lombardia che è partito l'accredito per attivare le schede telefoniche poi consegnate ai 10 fondamentalisti entrati in azione negli alberghi e negli altri luoghi frequentati dagli occidentali. Il luogo da dove è partita il pagamento delle schede telefoniche è una filiale della Western Union che sta in Corso Garibaldi al numero civico 53A di Brescia. Questo vuol dire che anche il tema della sicurezza è un tema sempre complicato. Abbiamo nelle varie città della Lombardia magari tolto qualche personaggio dalle stazioni ferroviarie, ma poi circolano comunque indisturbati quelli che fanno gli attentati da 130 morti al colpo. Una dichiarazione del premier italiano Silvio Berlusconi che risponde alle domande di Richard Osé, corrispondente da Roma delle Figaro, che gli ha fatto una lunga intervista ampiamente riportata sul giornale di oggi. Tra le molte domande ne scegliamo una. La Banca d'Italia, chiede l'intervistatore, si aspetta un abbassamento del prodotto interno lordo fino al 2% per quest'anno. Questo non va a scontrarsi col suo tradizionale ottimismo? La risposta: le rispondo con le parole di Henry Ford, che sull'ottimismo ha fondato un impero. Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento, non con il vento in coda. Nessuno nega la gravità della crisi, però a differenza degli anni 30, la risposta è stata tempestiva e corale. Anche Berlusconi, quindi, come Sarkozy, fa fede, ma questo è un po' il mestiere di tutti i premier che devono dare ottimismo, fa fede sulle mosse concertate dei governi. Se poi entriamo invece nel merito di alcune proposte che circolano, vorrei ricordare quella con cui titola il quotidiano MF, quotidiano dei mercati finanziari, che dice: Tremonti vuole l'oro di Draghi. Gianfranco Conte, presidente della Commissione Finanze vicino al Ministro dell'Economia, propone di usare le riserve auree della Banca d'Italia per garantire i prestiti degli istituti di credito a famiglie e imprese. L'impressione è che l'oro della Banca d'Italia tante volte debba essere usato per troppe cose. Finora la Banca d'Italia, a differenza per esempio delle banche centrali inglesi ed americane, è stata un baluardo solido, ha il bilancio in ordine, stiamo attenti di non scassarlo. Ma l'economia va vista anche dal punto di vista delle persone. Ed ecco che il quotidiano Libero titola a tutta pagina: per difendere il posto si riducono lo stipendio. Dirigenti, operai, giornalisti, anche in Italia c'è chi rinuncia a parte della busta paga per aiutare l'azienda in crisi ed evitare i licenziamenti. Presto la settimana super corta. E dentro, all'interno del giornale, vi è una ampia serie di esempi, fra cui anche quelli di alcuni giornali, per esempio il giornale che avevamo citato prima, l'altro giorno, ha vissuto un'importante riunione in cui l'editore Paolo Panerai ha chiesto ai propri dipendenti di autoridursi lo stipendio di circa il 10%. Il Il cronista Francesco Specchia nota: non è ancora dato sapere se il Paron taglierà i suoi di stipendi da pluridirettore, ma tant'è. Questo è quello che dice il quotidiano Libero. Se ci è consentita un'integrazione per la miglior comprensione di questi fenomeni, ricorderemo che la riduzione dell'orario di lavoro e la contestuale riduzione del salario è una tipica mossa che si usa in Germania, così come anche la riduzione degli stipendi, alla quale però segue un clamoroso aumento degli stipendi quando le cose riprendono ad andare bene. Ecco, questo è, come dire, il do ut des che tante volte in Italia è difficile fare. Proporrei che a fronte di eventuali riduzioni di stipendi ci siano anche, laddove possibile, adeguati aumenti di capitale da parte dei datori di lavoro. Ma veniamo all'altro tema, il tema criminalità. Il tema criminalità che è al centro dell'attenzione della Padania, che nella sua prima pagina non fa alcun riferimento all'economia, ma praticamente è tutto un discorso sui crimini rumeni, il bollettino di guerra dal Brasile, resistenze sui rimpatri e così via. E all'interno c'è una curiosa ordinanza del sindaco di Verona Tosi, che è molto ben voluto nella sua città, che si spinge a vietare la prostituzione anche in casa, non solo nelle strade ma anche nel chiuso delle pareti, diciamo, domestiche. Prostituzione, Belle de Jour non abiterà più a Verona. Con il provvedimento del sindaco leghista, multe alle lucciole che in qualche modo recano danno alla tranquillità del condominio dove operano. Va tuttavia detto che l'allarme rumeni poi dopo non risolve tutto, perché per esempio sul Messaggero, nelle cronache di Roma, si racconta come un italiano, un 29enne, di cui si danno le iniziali GV, ha travolto e ucciso senza fermarsi, mentre era ubriaco e drogato, un operaio rumeno per la strada. E come è accaduto talvolta agli extracomunitari, anche questo italiano, che va detto si è poi recato dalle autorità a raccontare questo drammatico episodio, è stato comunque rilasciato a piede libero. La politica è abbastanza in secondo piano, la politica dei partiti. Restano ancora un po' di critiche, un po' di osservazioni su dove andrà a parare il Partito Democratico. Il quotidiano Il Manifesto, che fa parte dell'area della sinistra, porta in prima pagina, come sua tradizione, una grande fotografia dove è ritratto Francesco Rutelli, e il titolo è una fucilata: esecutore testamentario. L'era Franceschini inizia, com'era finita quella Veltroni. Il Partito Democratico si divide sul testamento biologico, Rutelli si smarca dal partito e dalla proposta Finocchiaro, dando il via a un lungo addio. Se, per chiudere, potremmo ricordare la chiave di lettura che ci dà Stefano Folli sul suo punto sul Sole 24 Ore, proprio sulla politica. Riprendendo il filo del discorso che abbiamo lasciato con Il Manifesto, ecco, seguiamo l'ultimo paragrafo dell'articolo di Folli. Su queste posizioni il Partito Democratico sconta una frattura al suo interno, ma può sperare di ritrovare la sintonia con una vasta opinione laica di sinistra. Sull'altro versante, invece, la linea filocattolica è già presidiata dal centrodestra e ovviamente anche dall'UDC di Casini. Non a caso, quest'ultimo ha subito attaccato la posizione Franceschini-Finocchiaro con argomenti che rafforzano la convergenza con il gruppo Rutelli, Binetti, Enrico Letta ed altri. In questo frangente, una generica libertà di coscienza sui temi etici non serve al Partito Democratico, serve di più rafforzare un'identità, anche se questo può comportare l'approfondirsi del solco che separa i riformisti di sinistra dai centristi. E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. A domani. Grazie.